Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte e benvenute alla nostra 128esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Potete anche collegarvi, come sapete forse, speriamo, sul nostro sito internet alla pagina www.clrbp.it/laradio.htm e cliccare sull'icona in diretta. Allora, oggi qui in studio siamo io e... Aspetta che non si è sentita, Rosy. Sono sempre io, Rosina. Esatto. E Rosina. E siamo felicissime di essere nuovamente con voi e speriamo anche quest'anno di potervi proporre argomenti interessanti, ma soprattutto anche con il vostro contributo. Allora, se volete parlare con noi potete telefonare qui in diretta allo 06491750 oppure potete scriverci un'email al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it. Oppure, questa è la prima novità, se preferite mandarci un sms, mettiamo a disposizione stasera e poi penso che durerà per sempre, il cellulare 339-3469-492. Quindi se siete più timide, anche i semplici sms per dirci cosa ne pensate della nostra trasmissione o qualche pensiero di queste settimane. Allora, cominciamo con la musica e vi facciamo ascoltare un brano di Darian Brahms, che è una cantante lesbica indipendente di Portland, che ha fatto un mini tour in Italia, forse lo sapete perché immagino che Radio Onda Rossa il martedì abbia già dato voce a questo tour che è passato, e un concerto carino è stato organizzato proprio da Verusca di Ape Regina, che salutiamo, al Druids Rock Pub di Roma. E speriamo che torni presto a suonare, a magari anche al nostro CFS, sembra che ce l'abbia promesso per l'anno prossimo, chissà se a settembre ritornerà. Intanto vi facciamo ascoltare questo brano che ci è piaciuto particolarmente, che è Wicked, per dire come stiamo, io sto raffreddata e quindi sto abbastanza nervosa, quindi Wicked vuol dire cattiva, cioè, ed è tratto dall'ultimo CD Green Valentine, e per ordinare i suoi CD potete andare sul suo sito che è www.darianbrahms, scritto proprio Brahms come musicista, .com. Thank you. allora eccoci qui di nuovo in diretta. Dunque, qualcuno di voi sicuramente ricorderà che nell'ultima trasmissione andata in onda prima dell'estate, proprio io e Annalisa abbiamo letto un racconto di Nysa Donnelly, un racconto erotico che si intitolava Caccia al tesoro, e lo abbiamo letto appunto a due voci qui in radio. Dunque, vi dobbiamo dire che questo racconto ha suscitato un grande interesse e anche qualche polemica da parte delle nostre ascoltatrici, e tra queste ci ha colpito particolarmente una mail che ci ha inviato Margherita, che salutiamo perché sappiamo che è all'ascolto, sappiamo che non sta benissimo comunque. Sì, non diciamo troppe cose. Assolutamente no, le facciamo tanti auguri, la salutiamo. Sì. E dunque Margherita ci ascoltava proprio per la prima volta quel famoso martedì in cui è andato in onda questa sorta di scandalo, e dunque lei riteneva offensivo il racconto letto perché secondo lei, queste sono le sue parole, la gente identifica gay e lesbiche con i loro gusti sessuali, con i loro supposti vizi, e quindi parlare spesso di sesso avvalora le loro stupide tesi e i loro pregiudizi. Innanzitutto teniamo a sottolineare che in questa trasmissione abbiamo pochissimo parlato di sesso, e lo abbiamo fatto forse per la prima volta in quella occasione, proprio quel martedì, quindi è stato come ci ha avuto un tempismo straordinario Margherita. Dunque, comunque vogliamo dire che in linea di massima siamo assolutamente d'accordo con Margherita quando sostiene che il sesso viene considerato come un aspetto caratterizzante, forse l'aspetto caratterizzante dei gay. Insomma, ci sentiamo anche di dire che per certi versi, in una certa misura, è anche vero. Mentre invece non ci sentiamo di sostenere che la stessa cosa venga detta per le lesbiche. Questo perché generalmente nell'immaginario comune la sessualità femminile viene considerata accessoria a quella maschile, quindi a maggior ragione il sesso tra donne risulta incompleto e mancante. Facciamo un esempio chiaro, lampante, quello dei film pornografici, no? Nei quali l'azione sessuale tra donne, che generalmente è ripetitiva, sterile, noiosa, direi quasi irreale, se non altro per le unghie dire. Da clitoridectomia, che sono terribili. Quindi queste azioni sessuali fra donne preparano sempre e comunque l'arrivo del maschio, il maschio di turno, che insomma risolve l'intreccio, la situazione, che tutti sono contenti e felici. Dunque, il racconto della Donnelly, secondo noi, lo abbiamo letto, uno dei motivi per cui l'abbiamo letto è anche questo, è perché ha il pregio innanzitutto di essere un prodotto scritto da una donna lesbica per le donne, quindi diciamo senza compromessi. E la Donnelly ha messo a nudo degli aspetti puramente erotici in una relazione a due, e questi aspetti possono anche essere spinti per certi versi volgari, però hanno ragione di esistere, tanto quanto il famoso sesso alla vaniglia che imperversava negli anni passati fra le antenate delle lesbiche e che per anni ha caratterizzato insomma la sessualità, perlomeno quella percepita all'esterno, delle donne lesbiche. E vorrei anche, ad esempio, ricordare che c'è un bellissimo testo, un bellissimo racconto di Violette Leduc, una scrittrice francese, molto ammirata da Simone de Beauvoir, insomma chi è che non la conosce, che si chiama Thérèse et Isabelle, ed è praticamente la storia di una iniziazione diciamo sessuale di due ragazze che si incontrano in un collegio femminile. Questo libro è stato pubblicato negli anni 50 per la prima volta ed è stato sottoposto a una pesantissima censura da parte della casa editrice, e soltanto negli ultimi anni, ad esempio in Italia, è arrivato diciamo in versione integrale, ed è un libro che in qualche misura ha influenzato moltissimo la carriera di Leduc. Vorrei ricordare quello che diceva Virginia Woolf. Virginia Woolf sosteneva che se una scrittrice avesse scritto esattamente quello che sentiva in questo ambito, insomma nell'ambito sessuale, esattamente i suoi sentimenti, se li avesse espressi in maniera precisa, nessun uomo l'avrebbe pubblicata. Allora, noi non ci sentiamo di fare nessun tipo di censura, quindi abbiamo letto il racconto di Donnelly, probabilmente ne leggeremo degli altri. Mi auguro che Margherita ci ascolterà anche durante la lettura di questi altri racconti. Comunque, naturalmente, ben vengano le critiche di Margherita e di chiunque altra, perché innanzitutto ci danno il rimando che ci aspettiamo da voi e in secondo luogo ci permettono anche di chiarire le nostre posizioni, no Annalisa, che magari alle volte possono essere fraintese oppure possono risultare poco chiare. Quindi a questo punto, visto che abbiamo magari chiacchierato... non sempre da Margherita, sennò poi... non sempre da Margherita, perché poi Margherita, brutto, Margherita ci manderà i complimenti. Dunque, allora, proprio a Margherita e a tutte le donne che amano le donne, dedichiamo una canzone di Ella Fitzgerald che si chiama Let's Do It, buon intenditore, anzi a buona intenditrice, poche parole, e il diciamo secondo titolo, il sottotitolo è Let's Fall in Love. Educated fleas, do it, let's do it, let's fall in love. In Spain the best upper sets, do it, Lithuanians, and let's do it, let's do it, let's fall in love. The Dutch in old Amsterdam do it, not to mention the Finns, folks in Siam do it. Think of Siamese twins, some Argentines without means do it. People say in Boston even beans do it. Let's do it, let's fall in love. Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it. Let's do it, let's fall in love. Cold Cape Cod clams against their wish, do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it, let's fall in love. Electric eels, I might add, do it, though it shocks him, I know. Con la nostra trasmissione, dunque il 12 novembre a Bobigny Park della Bergère vicino a Parigi si terrà un importante evento, dunque l'Assemblea Europea per i diritti delle donne, dal titolo Con le donne per un'altra Europa in un altro mondo, e sarà praticamente l'iniziativa, l'intervento di apertura del Social Forum europeo. Dunque dal documento di presentazione di questa assemblea, ve lo leggiamo così come c'è pervenuto. Dunque, con l'ingresso massiccio sul mercato del lavoro e con la conquista del controllo della fertilità in molti paesi europei, le donne hanno trasformato profondamente la società. Tuttavia, malgrado i passi avanti, l'uguaglianza fra uomini e donne denunciata dalle leggi è ben lungi dall'essere realizzata. La povertà, la precarietà, la disoccupazione, una divisione del lavoro fra uomini e donne visibilmente iniqua, lo smantellamento dello Stato sociale e della sanità, le violenze e le discriminazioni nella sfera privata come nella sfera pubblica, la lesbofobia, gli attacchi all'integrità dei corpi femminili, le politiche di esclusione della Fortezza Europea continuano ad essere determinanti nella vita di molte di loro, ma le donne resistono. Dunque, si tratta praticamente di una assemblea organizzata da associazioni di tutta Europa che fanno tutte parte del processo di costruzione del forum sociale. E lo scopo di questa assemblea è quello di dare visibilità alle questioni legate all'oppressione femminile e quindi di denunciare le politiche neoliberiste che aggravano l'oppressione delle donne, di valorizzarne le lotte delle donne naturalmente e delle associazioni femministe in particolare. E la struttura di questa assemblea sarà, diciamo, concepita come un terreno di incontri e di scambi di esperienze, progetti di resistenza e di alternative. Quindi uno spazio per costruire una rete ed immaginare una visione alternativa dell'economia, della politica, della comunicazione, insomma delle biotecnologie, delle migrazioni, tutto per la costruzione finale di una società che rispetti le differenze. Dunque la struttura praticamente questa assemblea sarà strutturata in una serie di dibattiti. I dibattiti delle assemblee plenarie si distinguono in tre. Dunque il primo si chiamerà Donne e Uomini, dall'uguaglianza dei diritti all'uguaglianza reale, contro la divisione sessuale del lavoro, per la libertà delle donne nella società. Il secondo dibattito tratterà di immigrate, migranti e mondializzazione, statuto autonomo, l'apporto politico e di cittadinanza delle donne nel paese dell'accoglienza, donne vittime di traffici e persecuzioni sessiste o sessuali, e infine un ultimo dibattito che riguarderà l'apporto del femminismo al movimento sociale. Per tutte le informazioni, Annalisa, ci vuoi dire tu? Sì, allora, per informazioni potete scrivere all'indirizzo email assemb.fem.org @ras.eu.org, oppure se volete assistere sia all'Assemblea delle Donne che al Forum Social Europeo potete iscrivervi sul sito e vi do l'indirizzo che è www.fse-esf.org e c'è uno spazio a fine pagina per l'Assemblea delle Donne. Allora, adesso passiamo alla musica. Rosia, neanche uno squillino, neanche un messaggino al cellulare. Abbiamo dato tre possibilità, quindi o non vi piacciono le nostre canzoni, oppure non vi diciamo noi, o proprio io e Rosina. Noi vi aspettiamo con i trillini o quant'altro volete allo 06 49 17 50, oppure vi ridò questo telefono cellulare che per messaggini, se vi va, 339 34 69 492. E quindi passiamo alla musica. Avete 5 minuti a partire da ora, dopo li spegneremo tutti. Oh, grazie, che come cosa siete vince? Buone. Vince una settimana bianca in tua compagnia. Ah, ma poverino, almeno guarisco prima, giusto? No, ci vai direttamente così è meglio. Are filled with tears. My heart is filled with gladness. Oh, look, the orchestra's getting ready. Dance with me, George. Thank you. giustamente ringraziamo Paola che ci chiede qual è il titolo di questo brano. Il brano è The Mambo Craze dai The Fuzz. Grazie. A little pale today. Looks like it's time for that certain holiday. Some more in Ecuador. Stole a car in the streets of Panama. Went too far in Bogota. Ed ecco di nuovo che torniamo in diretta, di nuovo io e Rosina, e dopo vi diciamo che cosa vorremmo che ci scriveste, no? Al sito, messaggi d'amore, poesie, racconti, quello che vi va, noi lo leggiamo in diretta, se vi va. Insulti. Gli insulti, grazie. Insulti lesbici, come sarà? Sei una esperta lesbica perfidona. E allora, abbiamo letto con sorpresa una notizia della nuova proposta di legge presentata da 5 deputati di Forza Italia. Sì, avete capito bene, Forza Italia, che in 3 giorni ha ricevuto l'adesione di altri 17 deputati azzurri, che prevede la costituzione di un patto civile di solidarietà sottoscrivibile da 2 persone di qualsiasi sesso, che si impegnano a prestarsi reciproco aiuto, rescindibile in qualsiasi momento, ma che se duraturo può implicare anche il diritto di reversibilità della pensione. Ehi là là! Secondo i deputati di Forza Italia, la proposta vuole riempire un vuoto legislativo di fronte a una realtà diffusa, cioè quella delle convivenze di fatto e delle coppie gay. La proposta di legge tende a tutelare dal punto di vista economico 2 persone che, indipendentemente dal loro sesso, decidono di vivere insieme e di aiutarsi, e non intende essere una equiparazione, naturalmente, alla famiglia o il riconoscimento come pseudofamiglia. Questa notizia, unita all'altra, sempre di poco tempo fa, di Alleanza Nazionale che propone il voto amministrativo agli immigrati, sembra un banale tentativo di raccogliere consensi anche da parte di chi è stato sempre un bersaglio da parte dei partiti della maggioranza. Ci sembra, d'altro canto, ridicolo, in vista della riforma delle pensioni, accordare la reversibilità alle coppie lesbiche e gay, quando con ogni probabilità i cittadini di qualunque sesso, religione e convinzione politica saranno già morti prima ancora di aver versato 40 anni di contributi, no Rosina? Tu quanto starai? Beh, guarda, a me me ne mancano pochissimi, il problema sì, 40 anni, ammazza, no, me ne mancano 30, quindi sono come dire, a sì. Buon punto. Il problema è capire se sarò ancora viva fra 30 anni. Dunque, invece io direi che risulta ancora più fantascientifico che i partiti della maggioranza possano sviluppare l'idea di mettersi in opposizione alla Chiesa Cattolica, ed in particolare ad esempio al documento del cardinale Ratzinger che condanna ancora una volta gli omosessuali e che istiga all'odio e al disprezzo. Naturalmente saprete che stiamo parlando del lexicon, questo documento vaticano sottotitolato Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, il che è tutto un programma. Questo è un documento che è stato pubblicato poco tempo fa e contro cui hanno sporto querela numerose associazioni gay e lesbiche, dato che in esso appunto l'omosessualità viene considerata come una patologia o più esattamente come una perversione. Infatti ve lo leggiamo nella voce relativa al bambino, si leggono frasi come: i pedofili, seguendo l'esempio degli omosessuali, cominciano segretamente e con fermezza a lottare per i propri diritti, bastardi, nel tentativo di fare legalizzare le loro azioni attraverso l'abbassamento dell'età del consenso. E più avanti, la parte liberale tace in modo assoluto di fronte al fatto che l'abuso sessuale parta dall'educazione dei bambini nelle cosiddette famiglie composte da una coppia omosessuale. Un figlio adottato da una coppia omosessuale o una figlia adottata da una coppia di lesbiche, poi non si è capito perché una coppia di lesbiche debba necessariamente adottare una bambina e viceversa, sì, una coppia di gay un bambino, sì, vabbè, comunque, dunque dicevamo, un figlio adottato da una coppia omosessuale o una figlia adottata da una coppia di lesbiche diventa una facile vittima dei loro bisogni sessuali diretti verso un partner dello stesso sesso. E ancora, nella voce relativa all'omosessualità e all'omofobia, si leggono tra l'altro le seguenti frasi: l'omosessualità è contraria al vincolo sociale, poiché valorizzare una tendenza a scapito delle altre lascia intendere che si potrebbe vivere socialmente in balia delle pulsioni parziali. Omosessualità, voyeurismo, esibizionismo, sadomasochismo, travestitismo, transessualismo, pederastia, eccetera. E poi, socialmente l'omosessualità pone numerosi problemi quando la si vuole legittimare senza discernimento alcuno, ma non è soggetto di diritti poiché non ha alcun valore sociale. Essa resta un intrico psichico che la società non può istituire socialmente. Circa l'omofobia, ancora, che qui voglio dire, chi ne ha più ne metta. L'omofobia è un argomento di malafede e un prodotto dell'ansietà della psicologia omosessuale. In nome dell'omofobia, dei militanti vogliono soprattutto colpevolizzare gli eterosessuali. Che amati? Sei di malafede. Figurati, diciamo, una mala femmina di malafede, un malaffare. Veramente non ci sono parole per, insomma, per commentare, anzi pensiamo di sporgere querela anche noi come CLR, come Coordinamento Lesbiche Romane, e quindi invitiamo chiunque sia all'ascolto e faccia parte di una di un'organizzazione, di un'associazione, a sporgere querela secondo appunto gli usi. E dunque su questo sì, bellissimo pezzo di Ratzinger e della sua compagnia, dei suoi compagni di merende, oserei dire, vi proponiamo un brano che ci sembra, come direbbe Annalisa nel suo dialetto di Bolzano, azzeccato, ci azzecca assai, ed è un brano appunto tratto da Ecclesiastes, insomma mi sembra il brano si chiama così, il brano si chiama Ecclesiastes, Free My Heart di, scusate la pronuncia, Michel Geocello, speriamo che l'abbiamo pronunciato bene. Geocello. Questa è una lesbica senza valore sociale come te. Esatto. E tratto dal CD, lo possiamo pure dire, perché certo, ce l'abbiamo, Peace Behind Passion. Era meglio che non lo dicevi, che non posso sentire la pronuncia tua. Ma perché non sto bene. Stai male, sai. My hand. fills my heart. Too weak to get by, slave to discontentment and self-pity. One generation passes and another generation comes, but change abides forever. I come forth from my mother's womb, and naked shall I return to the earth to go as I came. E ricollegandoci alle dolci parole, aspettate che devo stoppare qua, sono parte pure la sigla finale. Allora, ricollegandoci alle parole che ci sollevano l'anima da parte della Chiesa, naturalmente non so se si sente la punta ironica, che sto malato, veramente. Allora si dice il mio figlio proprio, ma vi assicuro che proprio è la mia passione mi ha fatto venire qua, la mia passione per Rosina e per voi, naturalmente. Noi vi segnaliamo venerdì 17 ottobre, vi ho visto, le corna, alle ore 18:30 presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze, un incontro dibattito dal titolo Barbarie Vaticana e diritto all'amore, dalle infamie del Lexicon alle famiglie del domani, organizzato al Coming Out di Caserta, e all'iniziativa parteciperanno Don Franco Barbero, della comunità cristiana di base, Viottoli, lui è di Pinerolo, e Rita De Santis, che è della GEDO, l'associazione che io personalmente amo. Tu ami? Sì, sì. E che tua madre ne fa parte? No, naturalmente no, ma giusto perché non lo sa. Oh, l'associazione di genitori l'associazione, e amici di omosessuali. Esatto. genitori ed amici di omosessuali. Per info sulle iniziative e per gli altri appuntamenti dell'associazione potete collegarvi al loro sito, che è www.comingoutcaserta.it, oppure potete telefonare ai numeri 349-09-15-305. Sono stati carini, perché oltre all'Omnitel c'è anche il team 339-3453-123. Poi che bello. Allora, intanto ringrazio Annalisa per aver sostenuto la sua passione per me, ma in realtà lo fa per farsi perdonare. Vi dico, se incontrate Annalisa, non prestatele mai gli accendini, i vostri accendini, che se li inguatta tutti, perché è veramente una cleptomane. Pensavo che volevi ricordare la nostra fantastica giornata domenica a preparare questa trasmissione. Ma naturalmente, siamo state insieme tutto il giorno e sollevando, non sento che t'ho preparato. Meraviglioso, sollevando anche dei dubbi, delle perplessità da parte delle nostre compagne. Dice, che faranno queste, si sono nascoste tutto il giorno. Oh, dunque, parliamo di un altro martedì, il nostro martedì splendido. Ci sarà anche l'altro martedì, appunto, per chi non si trovasse a Roma, dalla prossima settimana, mi pare, se non sbaglio. Ricominciate come noi, credo. Così, quindi è ricominciato praticamente l'altro martedì su Radio Popolare a Milano, sui 107 e 600, e si tratta appunto di una trasmissione radiofonica che tratta argomenti del mondo gay e lesbico, e torna in onda ogni martedì dalle 22.35 alle 23.30. Ci dispiace solo la concomitanza dell'orario con il martedì femminista e lesbico autogestito di Radio Onda Rossa. Dunque, i conduttori quest'anno saranno Eleonora Dall'Ovo ed Emiliano Placchi, e ospiteranno quelle che vengono definite le personalità della comunità gay e lesbica e queer, e che daranno appunto il loro punto di vista su questioni di politica, cultura e cronaca. E ci saranno anche i Porn Flakes, che presenteranno i gruppi omosessuali più anomali sulla scena internazionale, e insomma sarà una trasmissione interessante per chi non è a Roma, insomma, la potrà seguire. Per informazioni potete contattare il sito www.radiopopolare.it, oppure scrivere una email. L'indirizzo è omomail@radiopopolare.it. Tu mi dirai che cosa sta Guarda, tu non sai che cosa è successo, quindi dovremmo mandare la sigla finale e poi andare in diretta, però io un attimo di attenzione da parte di tutti voi, perché abbiamo ricevuto un messaggio che è carinissimo. Leggi. Sono Lori, è la seconda volta che si sintonizza ed è insieme alla sua metà. La sua metà? Scandalizziamoci. Ma quale metà? La sua dolce metà ci fa i complimenti e coglie l'occasione per chiedere una canzone da dedicare alla sua, senti che bello, te l'hanno mai scritta a te, a Stellina, che con il suo sorriso mi ha incantata dal primo momento che l'ho incontrata. Ma che carina, che carina. Grazie Lori, grazie, un bacio a Stellina. Io non so se incontro i gusti tuoi. Sicuramente no. Qui temono le mie compagne, però io sono una romanticona, per cui per me questo messaggio cancro pesante. Ma già vedo i CD in mano ad Annalisa, mi si stanno addrizzando i capelli sulla testa, i pochi capelli rimasti vista l'età. Guarda, io avrei scelto per te e per Stellina, ringraziandomi di questo messaggino che ci rende felici naturalmente. E un brano di Guadalupe Pineda con Los Tres Ases, che si chiama Historia de un Amor, il vostro amor, molto romantico. Ballatelo per noi cercheremo di fare altrettanto, Rosina. Ma certamente, spazio c'è. Peccato che non c'è la videoconferenza, perché altrimenti potreste farvi due risate. Subito dopo il brano andrà in onda la sigla finale. Restate con noi, perché abbiamo ancora un abbondante quarto d'ora di diretta. Scriveteci ancora, e un bacio a Lori e a Stellina. Ciao ciao. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, brindaba el calor de tu pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué noche tan oscura, todo se le hace volver. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. La sigla. Sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold on me here. Oh, something's got a... Ed eccoci qui di nuovo in diretta, io e Rosina, facciamo vedere che siamo in diretta. Insomma, speriamo che questa canzone sia piaciuta a Lori e Stellina. Non sappiamo il nome di Stellina, probabilmente magari sarà proprio Stella. Insomma, ci fa tanto piacere. E Lori, questa canzone era molto bella, mi meraviglio del fatto che Lisa l'abbia scelta. Sono veramente molto compiaciuta. Allora. Allora, per il 18 ottobre, sabato prossimo, il collettivo femminista Le Rosse organizza una serata musicopolitica al centro sociale Ipo di Marino, che è appunto ai Castelli Romani. E la vabbè, io... poteva pensare a San Marino, no, San Marino. La serata è a sottoscrizione per sostenere una giovane compagna che ha fatto una causa all'azienda per cui lavora. Si invitano musiciste, DJ, però solo donne, please, questa volta non siamo noi ma proprio il collettivo femminista che chiedono questo favore, a contribuire alla serata. Per info potete scrivere una mail a autodeterminate@inventati.org. Inventati o inventati, chissà. Sarà inventati. Inventati. Inventati. Inventati. Inventati. Inventati. Inventati. Silvia femminista ha aperto una porta e ci ha bacchettato praticamente sulle dita e adesso è lì che se la sghignazza. Oh, dunque, allora Le Rosse le abbiamo liquidate. Sì. Dunque, invece anche fuori campo farà una iniziativa. Ricomincia le interessantissime serate Dunque, quindi sabato 25 ottobre ci sarà musica dal vivo, mostre, arti visive, teatro, insomma tutto quanto per farvi divertire. E queste serate saranno collegate dal tema cibo, parole e musica. E dunque, proprio la musica sarà curata dalla DJ Trippi. Sì. Con una musica disco e revival, pop, elettronica e commerciale. E queste serate appunto si terranno a Bologna, in un localino piccolo, carino. Ci sarà l'uso molto della cucina e cucinano anche molto bene. Cucinano molto bene. L'anno scorso è divertentissima. Annalisa, c'è stata? Sì. Benissimo, quindi si cena, si chiacchiera, si fa musica, si balla, ci si fidanza, chissà, insomma, si farà anche un po' di sesso spinto come... No, almeno a meno. Vabbè, non so se durante la serata no, ma magari dopo la serata, perché no? Oh, dunque, per le informazioni e le prenotazioni potete scrivere, dunque correggimi se sbaglio, info@fuoricampo.net. Oppure mandare un sms 338 73 2219. No, 222. 22219, pardon. Oppure 347 42 50 487. Vi diamo anche il telefono, hai visto mai questi numeri, poi potete anche giocarveli se vi va. Allora 051 34 99 69 e potete naturalmente visitare il sito di Fuoricampo, che è www.fuoricampo.net. E l'ultimo appuntamento che vi vogliamo segnalare, che ricominciano anche queste serate, questi party for lesbians and gay friends a Milano, al Cabianca, venerdì 31/10, e si chiama Milano Horror Party. L'orrore e la miseria di campi desolati, irti di sassi, si aggiungeranno un giorno a tutto il resto, tramando con le ombre maledette. S'alzi pure nel buio il gemito dei lemuri. Dei lemuri. Scusate. Questo è il bacchetto io. Rose di lebbra giungano fino al cielo. Non cambia nulla, perché l'antico e il nuovo insieme sono ravvolti nelle pieghe del costume destino, morte e orrore. Ma noi finiamo con una cosa un po'... Questo è Lovecraft. I segugi del tempo sono pronti, le carni d'entrambi a dilaniare. Questo è Lovecraft, e per info comunque collegatevi al sito loro, che è www.kickoff, kick con CK, naturalmente off con due F, punto B-I-Z. Bits. No, magari bits. Col raffreddore sembra cioè, bits. Fa la bits. Esatto. Fa le bits. Comunque, Annalisa, mi sembra che questo sia un tuo ritratto perfetto, questo stralcio, l'horror party, potresti andare. Bene. Va bene, io che dirvi? Grazie diciamo, della vostra presenza. Innanzitutto mandiamo un po' di musica. Ma sì. Sì? Poi vi salutiamo dopo. Se intanto volete scriverci altri messaggini, che stiamo pensando che sono molto molto carini, vi ringraziamo ancora. E io continuerei sempre con Ospetek, che mi piace moltissimo. E quindi, mentre prima era la colonna sonora della finestra di fronte, un altro film che amo moltissimo, che è Le fate ignoranti, vi ripropongo Bird and Bayer di Yasmin Sannino. Yeah. Allora ci siamo, Rosina. Ci siamo. Ce la dovremmo andare. Davvero? Che peccato. Ma rimaniamo qui, tanto Silvia. Silvia ci lascia lo spazio di liberamente. Non andate via voi, assolutamente, che questo, diciamo, è il clou del martedì. Femminista, lesbico, autogestito. La fine della nostra trasmissione. Esatto, la fine della nostra. È l'inizio di Liberamente, naturalmente. Molto carino. Quindi, come avrete capito, stasera Liberamente non andrà in onda, perché Silvia ovviamente ci lascia lo spazio. E noi come concludiamo? Ma noi concludiamo con i nostri saluti. Arrivederci, martedì prossimo va in onda la replica, ma anche diretta, il quarto d'ora va sempre in diretta, quindi saremo qui comunque in radio a ascoltare i vostri interventi. Aspettiamo tutti i contributi che vi vengono in mente, qualunque tutti i messaggini cosa che vi vengono in mente. Vi ringraziamo perché ci fa bene, ci aiuta a continuare, soprattutto in questa attività che stiamo facendo da 6 anni. Direi di chiudere perché Silvia e tutte le altre compagne ci stanno guardando storto. Bene, allora concludiamo grazie con James. Ma certo, grazie ancora e a martedì prossimo. Ciao ragazze. Ciao a tutti. Night and day, you are the one. Only you, beneath the moon and under the sun. Whether near to me or far, it's no matter where you are. And I think of you night and day, day and night. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic, in the silence of my lonely room, I think of you night and day, night and day. Under the hide of me, there's such a hungry yearning burning inside of me, and it's torment I won't be through. Till you let me spend my life making love to you, yeah. femminista autogestito presenta